Siamo Sisters, siamo a bordo di Piteas, ci troviamo a Lampedusa, abbiamo appena levato l'ancora e stiamo per mettere la rotta. Skipper, capitana, Kate, su quale sarà la nostra prua? Porto Palo, sulla Sicilia. Ci dirigiamo verso Porto Palo a sud della Sicilia, perché? Perché al momento c'è la flotta italiana della Sumo Flottiglia che è in attesa di partire, probabilmente partirà questa notte. Noi cercheremo, andando nella loro direzione, di intercettare le barche che provengono dalla Tunisia e che andranno ad incontrare in mare le barche che provengono dal sud della Sicilia. Quindi cercheremo di portare il messaggio di flotta, cioè della libertà di movimento per tutti e tutte senza condizioni. Unire questa lotta al movimento per la liberazione della Palestina. Il messaggio di flotta, infatti noi abbiamo appena concluso, siamo approdate questa mattina a Calamaluk, a Lampedusa, al termine dell'azione che abbiamo fatto con la mobilitazione flotta. È stata, per chi non si occupa abitualmente di ricerca e soccorso, un'esperienza molto forte. Alcune delle cose che colpiscono, alcune delle prime cose che colpiscono sono i detriti che si incontrano durante la navigazione. Abbiamo visto un barchino di legno, probabilmente abbandonato da poco a seguito di un salvataggio. Abbiamo visto diversi frammenti di imbarcazioni e oggetti di vario tipo. E poi le continue comunicazioni radio che segnalavano casi. Abbiamo segnalavano casi di, così come si dice, di stress, quindi di imbarcazioni in difficoltà. Purtroppo nelle sole meno di 8 ore in cui noi abbiamo presenziato in questa parte di mare, in questo specchio di mare, si sono registrati almeno 3 casi accertati, e purtroppo a Lampedusa è arrivata una salma e un'altra persona invece risulta dispersa.